24, i gialli della storia. Ho conosciuto Ali a Louisville, nel Kentucky. Un giorno mi arrivò una telefonata. Mi chiamo Cassius Marcellus Clay. Ho vinto i Golden Gloves nel Kentucky. Ho vinto anche i Gloves a Chicago. Ho vinto i Gloves a Seattle. E vincerò l'oro alle prossime Olimpiadi. Questo nel 1958. Quel ragazzo vedeva il futuro con 2 anni di anticipo. Cassius Clay, The King, il più grande di tutti, un pugile che conquisterà per 3 volte il titolo mondiale dei pesi massimi, che diventerà una leggenda. Ma ad appassionare i fan di tutto il mondo non sono soltanto le vittorie sul ring di un grande campione, ma anche il suo irremovibile impegno civile e religioso. Oggi a Mix 24 riviviamo la sua leggenda, le sue battaglie più dure, cominciando dall'Olimpiade del 60 a Roma e dai primi incontri da professionista. Ricordano quei momenti il giornalista Ian Wooldridge e il suo allenatore Angelo Dundee. Clay arrivò in finale contro un polacco molto esperto che mi pare aveva combattuto più di 300 incontri. Aspettò la terza ripresa e lo demolì. Cassius Clay mena i suoi colpi, quasi volesse togliersi i guantoni. Continua ad attaccare a centro ring. Qui piazza dei bei jab. Ragazzi, che pugile questo Clay! Ci rendemmo conto che Cassius Clay era un pugile speciale. All'epoca si scrisse tanto su di lui, ma nessuno immaginava che sarebbe diventato tanto grande. Fu una serata straordinaria. È da lì che è iniziato tutto. Quelli dal 1960 al 64 sono stati anni incredibili. Ci siamo divertiti davvero tanto con lui. Guarda questo! Guarda questo! Ancora! Ancora! Un campione dilettante di 18 anni, dal sorriso che conquista, si è sottoposto alla prima visita di controllo per il suo primo incontro da professionista. Tony Hunsaker entra negli annali come il primo avversario nella carriera dell'ottimo Cassius Clay. Il giovane Clay ha combattuto con sicurezza e in modo intelligente, vincendo l'incontro del suo debutto da professionista con un verdetto unanime. Per schivare i colpi si tirava indietro, come uno che si trova sui binari ferroviari. E per non essere investito dal treno che sta arrivando, si muove a destra, a sinistra, indietro, senza mai scendere dal binario. Alla fine il treno arriva e vieni travolto, a meno che tu non ti chiami Muhammad Ali. Nei miei ultimi 3 incontri avevo previsto il KO alla 4ª ripresa. Ho buttato giù Sonny Banks in 4 round. Ho buttato giù Don Warner in 4 round. E ho appena steso George Logan in 4 round. Ali sapeva vendersi bene. Aveva un grande fascino, una mente agile e un'ossessione morbosa per essere al centro dell'attenzione. A questo punto Clay è pronto ad affrontare l'incontro per il titolo mondiale, ma ad aspettarlo c'è un campione fortissimo, per i suoi tifosi è invincibile, è Sonny Liston. Ma Clay ha un'arma in più, è abilissimo a confondere e innervosire l'avversario prima del match, con provocazioni e interviste. Sono giovane, sono splendido, sono cattivo, sono bello e sono imbattibile. Puoi anche essere giovane e bello, ma non lo sarai più quando avrò finito con te. Hai 40 anni se non lo sai. E non meriti di salire sul ring con Cassius Clay. Se riesci a fare cose che gli altri non si aspettano, li costringi a pensare a te. E se pensano a te, significa che non pensano a quello che dovrebbero fare. Se riesci a distrarli, a distoglierli da quello che dovrebbero fare, hai molte probabilità di batterli. Muhammad Ali aveva questo vantaggio psicologico. Cassius, qualche giorno fa ho visto Sonny Liston. Hai visto quanto è brutto? Troppo brutto per essere campione del mondo. Il campione del mondo dovrebbe essere bello come me. Già all'inizio il piano di battaglia è chiarissimo. Lo sfidante Clay si sposta su entrambi i lati, ma soprattutto in senso orario, per evitare il colpo migliore del campione Liston, il gancio sinistro. Liston si fece prendere dalla frustrazione e i suoi colpi persero di forza e precisione. Lo sfavorito Clay, dato 8-1, passa al contrattacco. Sonny Liston ricorse a un vecchio trucco, una cosa che aveva già usato nell'incontro con Eddie Machen e in quello con Zora Folley, dove entrambi lamentarono una sorta di prurito agli occhi. E alla quarta e quinta ripresa, Clay non vedeva praticamente più niente. Clay ha chiaramente qualche problema agli occhi. Non sappiamo cosa stia succedendo veramente. Dall'angolo di Cassius Clay stanno urlando. Deve essergli andato qualcosa nell'occhio destro. Fatto sta che fatica a tenerlo aperto. E Sonny cercherà di approfittarne. Ali non vedeva più niente. Ho toccato col mignolo l'angolo del suo occhio e l'ho strofinato sul mio. Ha cominciato a bruciarmi. Negli occhi gli era finita una sostanza irritante. Allora ho preso la spugna e gli ho lavato gli occhi. Poi glieli ho asciugati con l'asciugamano e ho buttato anche quello perché non volevo avere intorno quella roba lì, qualunque cosa fosse. Ho fatto rialzare Ali. Non volevo che l'arbitro venisse all'angolo e il ragazzo gli chiedesse di interrompere il match. In quei momenti devi evitare che si facciano gesti isterici. Ero lì per quello. Le ultime istruzioni che gli diedi furono: corri. I colpi combinati dello sfidante sembrano più determinati rispetto alle prime riprese. Liston le aveva provate tutte per vincere, ma alla fine disse al diavolo. Sapeva di non avere nessuna chance con Clay. Aveva gli occhi gonfi, la faccia gonfia. Aveva anche provato un trucchetto che di solito funzionava, ma non c'era stato niente da fare. Il vincitore per knockout al settimo round è Cassius Clay. Cassius Clay festeggia la sua vittoria ed entra nel libro dei record con James Corbett, Gene Tunney, James Braddock e dà una svolta alla storia dei pesi massimi. Sono il più grande campione del mondo che sia mai esistito. Non ho nemmeno un livido in faccia mentre Sonny Liston è scoppiato. Ho appena compiuto 22 anni, sono io il più grande. Io parlo con Dio ogni giorno e se Dio è con me, nessuno può mettersi contro di me. Ho scosso il mondo. Io sono il re del mondo. Ferma. Io sono bello. Calma, non sei poi tanto bello. Sono un uomo cattivo, ho scosso il mondo. Quello con Liston è un incontro perfetto per strategia inventiva, ma il vero colpo di scena avviene all'indomani quando in un'intervista dichiara la sua conversione all'Islam e il suo nuovo nome, Muhammad Ali. È il 26 febbraio del 64 e Ali diventa il paladino dei neri americani. Perché adesso vuole essere chiamato Muhammad Ali? È il nome che mi ha dato il mio maestro spirituale, l'onorabile Elijah Muhammad. È il mio nome originale, un nome da nero. Cassius Clay era un nome da schiavo, io non sono più uno schiavo. Qual è il suo significato? Muhammad significa degno di ogni lode e Ali significa altissimo. What? Vediamo Miss America ed è bianca. Vediamo Miss Universo ed è bianca. Vediamo Miss Mondo ed è bianca. Vediamo Tarzan, che è il re della giungla. È bianco. Quando Muhammad Ali è salito alla ribalta, ha infranto il cliché nero e brutto. Lui diceva, non deve essere un problema essere neri, nero è bello. E basterebbe questo, lasciando da parte tutto il resto, per ritenerlo un grande, alla pari di Martin Luther King. Lui convinse i neri a considerarsi a posto, anzi, a considerarsi migliori. Ali era l'incarnazione dell'essere nero. Abbiamo imparato da lui a capire che essere neri significava andare orgogliosi del colore della propria pelle, del proprio naso, delle proprie labbra, dei propri capelli, del proprio modo di parlare. Grazie a lui abbiamo preso coscienza della nostra ragion d'essere. In questo è stato davvero grande per noi. Appena vinto il titolo mondiale dei pesi massimi, la prima cosa che volle fare fu di andare in Africa. A dire il vero, fu un'idea di Malcolm X. Nessuno sportivo nero nordamericano si era mai accorto dell'esistenza del continente africano. Quando Ali arrivò in Ghana, venne a casa mia. In strada si era formata una ressa di persone. Non riuscivamo nemmeno a mangiare e ad ascoltare quello che dicevamo, perché la gente fuori, in strada, urlava: Ali è il più grande! Muhammad Ali è il più grande! Il più grande! D'un tratto Muhammad Ali non era solo Muhammad Ali, il più grande, il pugile afroamericano, ma ormai era diventato uno di loro. Nell'anno che seguì la vittoria su Sonny Liston e la conquista del titolo mondiale dei pesi massimi, Ali era andato in Africa. Si era sposato. Aveva divorziato. Ed era di nuovo pronto a difendere il titolo contro Sonny Liston. Non avevo mai visto un pugile inveire così contro un altro pugile. Quando Sonny Liston era al tappeto, Ali urlava contro di lui. Non si fermava. Sonny non riesce a muoversi. Con Ali, vediamo come sia possibile esprimere un certo tipo di supremazia e di furore. Mandato al tappeto l'avversario, gli restava vicino e lo sfidava a rialzarsi. Da quel momento tutti i suoi combattimenti sono delle vere e proprie battaglie. L'obiettivo sono i diritti civili dei neri e poi la guerra nel Vietnam. Muhammad Ali si ribellò e disse: nessun vietnamita mi ha mai chiamato negro. Beh, questa sì che è una dichiarazione di principi. Che frase perfetta. Un concetto semplicissimo su un argomento su cui di solito si tende a fare un mucchio di discorsi complicati. È magnifico vedere qualcuno che riesce a essere così esplicito. Io non parto per questo e questo motivo. Clay, seguace della religione dei musulmani neri che preferisce essere chiamato Muhammad Ali, è salito subito al terzo piano del centro reclute per le pratiche di ingresso. Nel frattempo, all'esterno, si è raccolto un piccolo gruppo di manifestanti, alcuni con abiti simili a quelli indossati solitamente dai seguaci della religione dei musulmani neri. Dopo la visita medica, il responsabile dell'ufficio di reclutamento, il colonnello J. Edward McKee, ha parlato con i giornalisti. Si è rifiutato di arruolarsi nelle forze armate degli Stati Uniti. Cassius Clay ha lasciato il centro di reclutamento fra le acclamazioni dei suoi sostenitori che scandivano lo slogan «Se non parte lui, non andiamo neanche noi». Io voglio fare la box. Io voglio vincere in modo pulito. In guerra invece devi uccidere, uccidere, uccidere e ancora uccidere gente innocente. E questa è la differenza. Qualunque pugile venderebbe l'anima pur di diventare campione del mondo. Invece Ali che fa? Si riappropria della sua anima e rinuncia al titolo. Rinuncia al titolo per conservare la propria anima, per non tradirla. La scelta di Ali è dirompente. Perde il titolo, non può più combattere. In più l'FBI lo osserva con molta attenzione e per lui si potrebbero addirittura aprire le porte del carcere. È il 1968 e anche l'anno di alcuni avvenimenti sconvolgenti, durissimi scontri di piazza contro la guerra nel Vietnam e poi l'uccisione di Martin Luther King e successivamente quella di Bob Kennedy. In quel momento così difficile per Muhammad Ali, l'unico rifugio sembra essere la famiglia e il rigore delle idee. Non tornerò più a combattere se questo significherà vendermi o fare lo zio Tom o scendere a compromessi. A quelle condizioni mai. In quel periodo Ali si guadagna da vivere tenendo conferenze nei college. Nessuno scommetterebbe su un suo ritorno sul ring. Ma nel 1971, dopo l'assoluzione, una nuova sfida. L'avversario è il campione del mondo in carica, Joe Frazier. Un incontro storico al Madison Square Garden. In platea il jet set di tutto il mondo, mentre per la stampa è il match del secolo. Un incontro durissimo, ma sostanzialmente equilibrato. Quindicesimo ed ultimo round. Comincia la quindicesima ripresa e Ali parte. Bang, bang, bang! Fa arretrare Fraser. All'inizio della ripresa è Ali a dominare e urla: cadi. Devi cadere, scemo. Non lo sai che Dio ha detto che vincerò io questo incontro? Non puoi metterti contro Dio. Cadi, cadi. A quel punto, Fraser, che sta molto attento a queste cose, schiva un colpo, avanza, piazza un gancio sinistro e dice: e vorrà dire che stasera Dio finirà col sedere per terra. Ali si alza da quel colpo assestato da Joe Frazier. Noi avevamo le lacrime agli occhi e dicevamo: alzati, hai vinto l'incontro, anche se in quel momento lo stavano contando ed era a terra. E si è rialzato. Un grande coraggio. È fregato, eppure al 4 si rialza. È di nuovo in piedi. Ecco il gong che segna la fine del combattimento. Il verdetto è unanime. Joe Frazier conquista il titolo di campione dei pesi massimi, il più grande di tutti i tempi. Quell'incontro mi lasciò sconvolto. Per due notti dopo quella sera non riuscii a dormire. Quello che ognuno dei due pugili era riuscito a tirar fuori dall'altro era stato straordinario. All'indomani di quell'incontro, la leggenda di Muhammad Ali crebbe ancora di più. Si propagò come quando getti un sasso nell'acqua. Quell'uomo aveva dato tutto, e anche di più, per una causa persa. E ora non si lamentava, non cercava alibi o scuse. Lo sconfitto, alla fine, divenne il vincitore del match, e il vincitore diventò lo sconfitto. Nonostante la sconfitta, il pubblico è dalla sua parte. È lui il vincitore morale, ma comunque deve ricominciare quasi da zero. Poi nel 74, un'altra indimenticabile sfida con il gigante del Texas, George Foreman. L'incontro si svolge in Africa, nello Zaire, nella tenuta del dittatore Mobutu. Sono il peso massimo più veloce, il più elegante, il più tecnico, il più artistico di tutti i tempi. E stammi a sentire, Jerry, se pensi che il mondo sia rimasto impressionato dalle dimissioni di Nixon, aspetta a vedere quando concerò per le feste Foreman. Ali si sta mostrando in grado di impressionire George Foreman. Ora si combatte su tutto il ring. Stavolta il destro di Foreman va a segno. Un altro destro, un buon destro. I due si incontrano a viso aperto. È un bellissimo incontro, signore e signori. Il grande danzatore che tutti conoscevamo, messo alle corde così, è ripresa dopo ripresa costretto a ripararsi con le braccia dai colpi più terribili di Foreman. Anche lui però ne metteva a segno qualcuno. Foreman è sulla sinistra dello schermo, Ali sulla destra. Ali si appoggia alle corde. Para un destro con i guantoni, un altro destro terribile colpisce Ali dietro la testa. Ancora Foreman con il suo destro poderoso. Ali sembra cercare il corpo a corpo con l'avversario, ma i suoi colpi non fanno nessun danno. È andata avanti così per 4 o 5 riprese. Foreman sembrava una manichetta dei pompieri quando chiudi l'acqua. Sempre più flaccido, accasciato, con Ali che gli urlava: più forte di così non sai colpire. E Foreman che si impegnava ancora di più. Se fosse stato un attore, l'avresti detto il più grande improvvisatore che fosse mai esistito. Ali sapeva sempre quale fosse il momento giusto per entrare. Riusciva ad avere un quadro complessivo della situazione e trovava il modo per improvvisare, trovando la soluzione perfetta per quel particolare momento. Come un attore che improvvisa sulla scena. Foreman sembra tornare alla carica. Ancora un minuto alla fine del quinto round. Questo è il round di George Foreman. Per Ali le cose non si stanno mettendo bene. Lo pesto al primo round, lo pesto al secondo, al terzo, al quarto. Ma al quinto quello è ancora lì che continua a ripetermi. Tutto qui? Io penso, ma da dove esce questo qua? Era sempre più sicuro di sé, nonostante avessi il match in pugno. Poi a un tratto mi colpisce con un 1-2 e mi ritrovo a terra. Faccio per rialzarmi, il mio manager mi urla di rialzarmi ed ecco che l'incontro è finito, ho perso il titolo. Non mi sono mai sentito così depresso. Perdere il titolo e per giunta contro il più grande sbruffone della terra, Muhammad Ali. Mi ci è voluto quasi un anno prima di riuscire a dormire di nuovo. È una scena incredibile! Il pubblico è in delirio! Muhammad Ali ha vinto! Muhammad Ali ha vinto per KO! È un KO! E che KO, signore e signori! Dunque Ali è di nuovo il campione del mondo, ma il re non può fermarsi e l'attesa di tutto il mondo è legata a un nuovo incontro col suo avversario di sempre. A Manila, il 1 ottobre del 75, Muhammad Ali incontra per la terza volta Joe Frazier. e sarà un incontro drammatico al limite della resistenza fisica. Ali impostò l'intero incontro cercando di tenersi alla larga dal jab di Joe. La tecnica di Joe consisteva nel colpire qui sotto, spostare questo da un lato e piazzare il colpo qui. Alla 14ª ripresa, Frazier era così esausto che non riusciva più a farsi sotto. La sua faccia sembrava sul punto di esplodere. Aveva gli occhi così serrati che neppure si vedevano. Frazier è ferito! Una brutta ferita! Aveva il volto ricoperto di liquidi e sangue che schizzavano tutto intorno. Ogni tanto, quando riusciva a rimettersi in sesto, Ali piazzava il suo destro e Joe tornava nel pallone. Problema risolto. Frazier stava per andare giù dopo un paio di colpi in rapida successione. Arriva il medico che verifica le condizioni di Frazier. Frazier non vedeva più niente, ormai brancolava, e di faccia decise di mettere fine all'incontro. Un gesto umano, raro nella box. Credo che sia finita! È finita! Dopo l'incontro con Frazier, forse Ali avrebbe dovuto abbandonare il ring, anche perché cominciano a essere evidenti stanchezza e problemi fisici. Ma la voglia di affrontare le sfide porta Ali a incrociare i guantoni con Leon Spinks, il campione olimpico del 76. E il febbraio del 78 l'incontro si risolverà in una sconfitta ai punti che metteranno in evidenza la staticità e la mancanza di lucidità di Ali. Ma ancora una volta Ali non si arrende e dopo pochi mesi, a settembre dello stesso anno, rincontra Spinks per la rivincita. Sarò il primo a vincere il titolo 3 volte ed entrare nella storia. Sarò il primo uomo a vincere il titolo 3 volte. Il match con Leon Spinks è uno dei miei preferiti, perché in quell'incontro Ali è stato capace di tornare grande, ma non ha battuto Leon Spinks fisicamente. L'ha battuto psicologicamente, usando tutta la sua tecnica, la sua grande conoscenza del ring. Dopo la vittoria del terzo titolo mondiale per Ali, comincia una veloce parabola discendente con alcune sconfitte umilianti. Ma la battaglia più dura che dovrà sostenere sarà quella con il morbo di Parkinson. Anche in questo caso troverà la forza per dimostrare la sua grandezza, dedicando il resto della sua vita a combattere ingiustizie, discriminazioni e povertà. Tutta la mia box, tutto il mio gran correre, la pubblicità, è stato solo l'inizio. È adesso che comincia la mia vita. Combattere l'ingiustizia, combattere il razzismo, combattere il crimine, combattere l'oscenità, combattere la povertà, sfruttare il volto che tutto il mondo conosce per andare in giro e rappresentare la verità e aiutare determinate cause. Il pugilato è solo lo spogliatoio. I problemi del mondo sono il ring. Il pugilato mi è servito solo per farmi conoscere dal mondo. E poi non si dice che la vita inizia a 40 anni? L'hai mai sentito dire? Certamente. Io ne ho 39. Hanno collaborato ai gialli della storia Francesco Anzalone, Daniela Ghezzi, Antonella Migliaccio, Alessandro Chiappini e Valerio Rocchetti in regia. Le puntate si possono riascoltare in podcast sulle pagine di Mix 24 sul sito www.radio24.it.